Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. Che cos'è la certificazione dei diritti prevista per coloro che hanno maturato i vecchi requisiti per andare in pensione entro il 31 dicembre 2011? I lavoratori che hanno maturato i vecchi requisiti entro il 31 dicembre scorso possono andare in pensione secondo le regole precedenti, ma possono decidere anche di continuare a lavorare. Ma perché possano essere certi del titolo maturato, possono chiedere la cosiddetta certificazione dei requisiti all'Istituto di Previdenza, che in sostanza accerterà e confermerà, a tutela dei buoni diritti, che sono state raggiunte le condizioni richieste per la pensione al 31 dicembre 2011. Basterà rivolgersi al proprio istituto previdenziale o allo sportello di un patronato, con la possibilità per l'INPS di richiedere il certificato anche online.